Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. È il federalismo day, titola il quotidiano La Padania. Oggi il sì del Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega sulla riforma fiscale. Cotta afferma: senza questo importante cambiamento il paese verso il tracollo. Sì, questo è il quotidiano della Lega, La Padania, che dà grande risalto, come avete sentito poi anche le notizie del GR, è il giorno davvero del federalismo. Ma se andiamo a vedere qualche giornale, qualche quotidiano, insomma, proprio in questo giorno di critiche al federalismo ce ne sono parecchie, e a questo tipo di federalismo, così come si sta configurando con gli ultimi fatti. Vi leggo due quotidiani, il Riformista e il quotidiano Libero. Allora, il Riformista, Alessandro De Angelis, intervista l'economista Luca Ricolfi, peraltro editorialista del quotidiano La Stampa, che da due giorni è in sciopero, cioè non esce comunque, non l'abbiamo neanche tra la nostra mazzetta dei quotidiani. Ecco, cosa dice Luca Ricolfi? Siamo al federalismo assistenziale o all'assistenzialismo federalista? Luca Ricolfi, politologo editorialista, ha fatto conti su quanto può costare la riforma Calderoli. E al Riformista spiega: lo scambio tra la Lega e le regioni del Sud è dovuto al fatto che tutti vogliono più soldi, e l'alleanza degli spreconi. Infatti il titolo è molto forte, quello del Riformista: la Lega degli spreconi. Come giudica la bozza Calderoli? Io lo chiamerei federalismo assistenziale o assistenzialismo federale. Comunque l'idea che il federalismo si coniugasse con l'efficienza è morta. Basta fare i conti. Si spieghi, chiede l'intervistatore a Luca Ricolfi. Partiamo dall'inizio, da quel che può succedere sulla sanità, che nelle regioni è la voce di bilancio più rilevante. Sacconi in un primo momento aveva detto che nel passaggio dalla spesa storica ai costi standard dovevano essere scelti come parametri quelli del Lombardo-Veneto, e quindi dovevano essere usate risorse per abitante uguali in tutte le regioni. La cifra risparmiata totale era di 4,7 miliardi di euro. Invece Calderoli ha detto: non possiamo mica fare i pidocchiosi con le regioni, e ha proposto di usare i parametri dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Io l'ho preso sul serio e ho fatto i conti, e i miei risultati sono analoghi a quelli presentati dal ministro Sacconi in audizione nella seconda simulazione. Se si prende come benchmark l'Emilia, si riducono i risparmi sulla sanità di 2 o 3 miliardi di euro. Se usiamo la Toscana anziché avere dei risparmi, rischiamo di avere un aumento della spesa totale. Quindi, conti fatti, aumenta la spesa. Come mai? Perché nel sud noi abbiamo regioni che hanno una spesa maggiore del benchmark, ma anche regioni sottofinanziate che hanno una spesa bassa. Mi spiego: se si utilizza il benchmark della Lombardia, ci sono regioni che vengono rifinanziate per 1 miliardo, se si utilizza quella dell'Emilia per 4, con la Toscana per 6 o 7. Ecco, insomma, i conti fatti da Luca Ricolfi sono abbastanza impressionanti, perché ci dice: vuol dire che il federalismo conviene al sud? Sì, perché in buona parte del sud i tagli fatti con il nuovo metodo di Calderoli non compensano i rifinanziamenti, quindi anziché avere dei risparmi si ha un aumento complessivo della spesa della sanità. È passato come luogo comune che nel mezzogiorno ci sono solo eccessi di spesa, ma ci sono anche regioni sottofinanziate. E questo vi dicevo, Luca Ricolfi. Il quotidiano Libero dedica anch'esso, con un richiamo in prima pagina, federalismo fiscale o mortale? Ecco, è Gianluigi Paragone che scrive: sul federalismo fiscale presentato al ministro Calderoli si sa poco, se non che la Lega ha minacciato di uscire dal governo nel caso venisse boicottato. Niente di scandaloso, per carità, per un movimento che ha tatuato il federalismo sulle proprie pelle è più che comprensibile. Quello che non è chiaro è come intende portarci a questo benedetto federalismo, tanto più che nella sua attuazione fiscale. Siamo sicuri che Calderoli abbia le idee chiare? Ci piacerebbe però che le spiegasse anche a noi, perché a occhio e croce la riforma in questione sta mandando in bestia parecchi amministratori locali, non solo del centro-sinistra. La protesta riguarda per lo più l'uovo di oggi, cioè il mancato gettito dell'ICI e come il governo intenda far fronte a oggettive esigenze di cassa. Tuttavia, pure la gallina di domani non è esente da osservazioni critiche. Provo a elencarne alcune. Perché in attesa di arrivare al rigore del federalismo fiscale, si chiede Gianluigi Paragone su Libero, il governo ha deciso di ripianare i debiti di quelle regioni e di quei comuni esempi poco virtuosi di buona amministrazione? Se il federalismo fiscale serve per inchiodare gli amministratori all'efficacia della loro azione di governo locale, questo passaggio non sembra un buon inizio. A dirla tutta, l'impressione è che si voglia chiudere ancora una volta la vicenda a tarallucci e vino, tanto poi ci pensa il contribuente. A proposito di sanità, è noto che il grosso delle sofferenze dei bilanci regionali è dato dalle cattive gestioni del comparto sanitario. Qual è l'esempio virtuoso che il federalismo fiscale utilizzerà come metro di giudizio? Ecco, lo stesso ragionamento che viene fatto da Luca Ricolfi sul quotidiano Il Riformista, intervistato dal Riformista, ovvero insomma, sono dissonanti, dicono i due quotidiani, tanto per dirla, col federalismo fiscale. Gli aiuti sono stati dati di recente ad alcune regioni che nulla hanno a che fare con l'autonomia, insomma, che le regioni stesse e le città stesse, vedi Catania, dovrebbero avere, e questo è un tema molto forte. Ora voglio ricordarvi che Libero, per esempio, titola in tutto su tutt'altra questione: rettori da barricata, niente lezioni né corsi, tutti a protestare contro il governo e quindi contro il ministro Gelmini, applausi dai soliti firmaioli di sinistra. E poi dice l'ultima di Veltroni, titola ancora: Berlusconi non sarà mai capo di Stato. In che senso Berlusconi vuole velocizzare i tempi del Parlamento? Adesso si affaccia da Palazzo Venezia e ce lo spiega. È così che il ferocissimo vignettista LK sul quotidiano La Repubblica interpreta, diciamo, disegna lo scontro, o comunque la diversità di opinioni che c'è tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi a proposito del ruolo del Parlamento e del ruolo dei decreti legge. Sì, questo è, dico ferocissimo, perché come voi ricorderete da Palazzo Venezia parlava, dal balcone famoso di Palazzo Venezia parlava Benito Mussolini. Il quotidiano La Repubblica si occupa ampiamente di questa questione e riporta le parole di Silvio: non può andare sul colle, dice Walter Veltroni, non garantisce la Costituzione. Un retroscena di Goffredo De Marchis, che invece dice: beh, ma il Cavaliere studia la scalata al Quirinale, con la mia storia perché non pensarci? Il leader PDL sarebbe facilmente eletto in questa legislatura, ma l'erede di Napolitano sarà scelto dal prossimo Parlamento. E un giornalista sportivo lo inquadrò alla prima rivoluzionaria conferenza stampa da neopresidente del Milan nel lontano marzo 86, questo qui un giorno leggerà il messaggio di fine anno. Quel commento di 22 anni fa è oggi qualcosa di più di una profetica battuta, perché Silvio Berlusconi è sceso in campo nel 94 e a Palazzo Chigi per la terza volta, e insomma è un leader molto popolare, e dice, e quindi non è escluso che presto o tardi si ponga il problema del suo arrivo. Ma al Quirinale. E Massimo Giannini, vice direttore della Repubblica, però si incarica di fare la critica più pesante, quella politica. In Italia, alla vigilia del varo imminente dell'ennesimo decreto legge, scrive Giannini, stavolta sulla prostituzione, il Presidente del Consiglio lancia un attacco ideologico contro il Parlamento, colpevole di intralciare l'azione del governo. Imporrò alle Camere, parole di Berlusconi queste, l'approvazione entro 2 mesi di tutti i decreti legge che riterrò necessari per governare il Paese, annuncia Berlusconi, e non esiterò a porre la fiducia ogni volta che servirà, poiché la fiducia è questione di coraggio e di responsabilità. Sarebbe, dicono i quotidiani oggi, proprio quel imporrò che ha infastidito Gianfranco Fini, presidente della Camera. Ora, l'attacco al potere legislativo, scrive ancora Giannini, è una mossa d'effetto che può far presa nella gente, ma è una scelta grave, lo è dal punto di vista politico. Anche il Parlamento per lo più ridotto a votificio, necessità di riforme. Ma la scelta di Berlusconi è grave anche e soprattutto dal punto di vista istituzionale. Ha un solo precedente, evidentemente non casuale, nella storia repubblicana. È Bettino Craxi che al congresso del PSI di Verona nell'84, furibondo per la mancata conversione del decreto di San Valentino sulla scala mobile, tuonò contro i parlamentari che si occupavano solo di conferenze sulle asperine e di norme in materia di pollame. Insomma, dice, questo è davvero grave. Il quotidiano La Repubblica riporta anche, intanto un Altan anche qui molto sarcastico: è una guerra civile o una guerra per bande quella che si svolge in Campania? Non so, sentiamo l'opinione della Camorra. Francesco Merlo invece non è affatto in dubbio, prende posizione a favore di Ignazio La Russa sul quotidiano La Repubblica. Scrive Francesco Merlo dopo un ragionamento in cui si dice che è pericoloso parlare di guerra civile in Campania, perché guerra civile presuppone che ci siano, diciamo, due contendenti alla pari. Dunque, secondo noi, dice Merlo, ha ragione La Russa quando dice che parlare di guerra civile significa fare un favore ai camorristi. Non vorremmo che il siciliano La Russa lo dica per un malinteso patriottismo sudista, ma è certo che l'idea di guerra civile nobilita e ingentilisce il criminale, lo promuove civis, abitante della civiltà. E questo, insomma, scrive La Repubblica a proposito del dibattito che c'è tra Roberto Maroni e Ignazio La Russa sul come definire quello che sta avvenendo in Campania. Intanto, razzisti a Roma, pestato un cinese. Questo il titolo sempre sulla Repubblica. Ma a proposito di questioni istituzionali e di ruolo dello Stato, io volevo segnalarvi un editoriale di Mario Giordano sul quotidiano Il Giornale, perché direttore del Giornale peraltro, perché Giordano oggi pone una questione abbastanza importante alla luce di quanto è avvenuto negli Stati Uniti, in Inghilterra, cioè gli aiuti di Stato e l'intervento dello Stato nell'economia. È noto che in Europa è vietato l'aiuto di Stato, ma è altrettanto noto che nell'ultimo mese sono intervenuti a raffiche interventi. Qui Giordano ha un ragionamento: aiuti di Stato, davvero a Bruxelles si riuniranno per decidere sugli aiuti di Stato all'Italia e staranno a cavillare su debiti e prestiti ponte lì a pochi passi da un altro palazzo dove il governo del Belgio ha stanziato 8,4 miliardi per soccorrere due colossi bancari? Davvero i burocrati della UE non coglieranno il senso del ridicolo o perlomeno dell'inadeguato? In fondo il ragionamento di Mario Giordano, si può essere d'accordo o no, voglio dire, sull'Alitalia, ma come è andata a finire l'Italia, ma è calzante. Per salvare Forti si sono mossi il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, totale 10 miliardi di denaro pubblico. Per Dexia Belgio e Francia hanno versato quasi 7 miliardi. La Germania ha aiutato Iporè con 35 miliardi di euro. La Gran Bretagna ha nazionalizzato dopo Northern Rock anche Bradford and Bringley. La Danimarca ha nazionalizzato Rothschild Bank, l'Irlanda la Gritrin, il governo di Londra ha rilevato mutui a rischio per 91 miliardi di dollari e noi stiamo qui a parlare di aiuti di Stato per l'Italia. Ecco, sì, effettivamente sarà un po' difficile, perché tutti gli esempi che abbiamo fatto, se si prova ad alzare la testa oltre lo tsunami e verso Bruxelles, non si può non avvertire quanto l'UE sia anacronistica. Quei commissari chiusi nelle loro stanzette a formulare decreti da zecca garbuglia, adesso qui il titolo è molto pesante il giudizio, ma insomma, e allora ha ancora senso discutere di aiuti di Stato mentre gli USA approvano un piano da 700 miliardi di dollari di intervento pubblico nell'economia? O, per dirne un'altra, ha ancora senso discutere di deficit PIL al 3%? Non sono troppi piccini quei parametri per la grandiosità della crisi? La verità è che l'Europa sta pagando fino in fondo il vizio originale di essere nata senza anima e adesso che si trova lì sotto schiaffo è umiliata, indebolita dai suoi fallimenti in serie, non sa che cosa fare se non rifugiarsi nei soliti riti da sempre inutili e ora pure obsoleti. Ecco, questo è importante, ripeto, al di là di tutti i ragionamenti, gli schieramenti politici, perché pone un problema che è reale. Quanto senso ha parlare di divieto degli aiuti di Stato dopo che in tutto il mondo gli Stati stanno intervenendo pesantemente con denaro, addirittura nazionalizzando interi sistemi bancari. Ecco, questo è cosa viene, come si legge sul giornale: i colpevoli del crack ricoperti d'oro, poi scandalo nella crisi finanziaria, 161 milioni di dollari a chi ha portato Merrill Lynch vicino al fallimento, 105 milioni a chi ha messo in ginocchio Citigroup, ma ora l'Europa si ribella ai paracadute per i manager e la BCE, spaventata dal contagio, è pronta a tagliare i tassi. E poi vi è anche un racconto, vi racconto l'Odissea di noi risparmiatori, una storia firmata da Cristiano Gatti. Il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore che oggi titola ancora, ai noi, su Wall Street, scivola meno 4,2%, la BCE apre al taglio dei tassi, sembra infinita questa storia perché malgrado sia stato approvato il piano da tanti miliardi di dollari, Trichet, crescita sempre più debole, e Sole 24 Ore si occupa anche naturalmente il modello Confindustria porta 2.500 euro in 4 anni, e la replica di Emma Marcegaglia al segretario della CGIL Guglielmo Epifani sui contratti, e c'è anche dove viene registrato anche l'incontro con Veltroni nel tentativo di mediare politicamente ed evitare uno scontro ancora più forte. Il Sole 24 Ore affida invece al suo giornalista politico Stefano Folli il punto: il Premier agisce a proposito dello scontro Fini-Berlusconi, il Premier agisce come se le riforme fossero fatte, il leader PD gli nega ogni legittimità per il Colle. Per la nostra cultura parlamentare è quasi uno shock, non solo a Palazzo Chigi siede un Presidente del Consiglio che gode di un potere sconosciuto a tutti i suoi predecessori, ma costui, l'uomo del fare, non esita a trattare con qualche sufficienza i suoi stessi parlamentari, membri di una maggioranza ampia come non mai. Il fatto è che Berlusconi, esaltando il ricorso al decreto, sa di interpretare il sentimento di una larga opinione pubblica desiderosa di efficienza, e gli parla e agisce come se fosse stata già approvata la riforma della Costituzione, una riforma, va da sé, che fotografa il ruolo crescente dell'esecutivo a scapito del Parlamento. Gianfranco Fini, pur essendo parte della maggioranza come Schifani del resto, ha avuto da obiettare con argomenti logici e ha difeso la funzione delle Camere. Si può essere certi che così facendo ha voluto anche dar voce ai dubbi del Quirinale. È uno dei casi in cui è opportuno che il Presidente di uno dei rami del Parlamento copra la corona. Non si può chiedere a Napolitano, cui spetta di firmare i decreti, di esporsi in prima persona in una sorta di conflitto sotterraneo con il Governo. Meglio concentrare gli sforzi verso una modifica dei regolamenti parlamentari. Insomma, questo scrive Folli nel suo punto quotidiano, e ancora nei primi sei mesi l'indebitamento netto sale al 2,6% del PIL, i conti pubblici, diminuisce l'avanzo primario. Ecco, questa è un'altra brutta notizia che noi rileviamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Ora, il Corriere della Sera, invece, in modo diverso, affida a Giovanni Sartori, politologo, un articolo dal titolo «La scomparsa del buon senso». Quel buon senso che fa dire e fare cose sensate è oramai un caro istinto, soppiantato dall'insensato e dall'insensatezza e dal dementismo, ahimè, una demenza giovanile assai più che senile. Chi ha ucciso il buon senso e perché? Lo dirò man mano, intanto illustriamo il problema con due casi esemplari di insensatezza. Nel nostro piccolo, il lungamente perseguito e pressoché riuscito suicidio dell'Alitalia, e nel più grande mondo circostante, il crescente e anch'esso insensato rigelo nei rapporti tra Washington e Mosca. Questo scrive Giovanni Sartori. Quello dell'Alitalia era una morte preannunziata e anche più che meritata. Da almeno un decennio ne sarebbe stato un suicidio inedito. Negli Stati Uniti la TWA, Trans World Airlines, è stata uccisa proprio dal suo personale di volo, e fu anche fatta tranquillamente fallire, come si fa nei paesi seri. In Europa e più di recente alcune rispettabili compagnie di bandiera come la Swissair e la Sabena sono state come ugualmente passati in altre mani. Anche la Svizzera avrebbe avuto come noi l'alibi del turismo, ma che io sappia nessuno l'ha invocato. E i turisti, mi dicono, ci sono ancora. Allora chi ha messo in testa ai nostri piloti e alle vocifere hostess che ancora l'altro giorno esultavano gridando meglio falliti che in mano ai banditi? Leggi Colaninno che all'Italia era una vacca sacra, una voragine mangiasoldi che però nessuno avrebbe osato toccare. L'altro caso, diceva, è quello del deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Russia. Era inevitabile? No, a mio avviso era evitabile, è assolutamente da evitare. E la colpa di chi è? Per Salomone sarebbe stata per metà di Bush e per metà di Putin, per il grosso degli occidentali e soprattutto di Putin, per i meno che mi includono, la colpa è invece soprattutto di Bush e dell'ideologismo democratico che oggi imperversa, incorporato nell'altrettanto imperversante contesto del politicamente corretto. E questo scrive Giovanni Sartori. Sartori si occupa anche, l'apertura intanto del giornale del Corriere della Sera è Decreti TV, Berlusconi attacca e dice ai suoi basta andare in TV a farci insultare. Silvio Berlusconi è stato chiaro, basta andare in TV, ci sono programmi indecenti, questo è il riferimento, si dice in un servizio, è comprensivo anche di Porta a Porta, vediamo se è vero. Nel salotto di Rai 1 il capo dei redattori PDL e il coordinatore di di Forza Italia Verdini sono stati contrastati da Di Pietro e dalla Bindi. L'effetto è stato quello di un dito in un occhio, questo è un articolo di Antonietta Calabrò sul Corriere della Sera. L'annuncio di Berlusconi che né esponenti del PDL né ministri saranno più presenti ai talk show provoca reazioni secche, stizzite da parte di alcuni dei più famosi conduttori. Bruno Vespa ha appena finito di registrare la puntata di Porta a Porta di ieri che per ironia del destino ospitava la pupilla del Presidente del Consiglio, il ministro Mara Carfagna, e dichiara: credo che salvo eccezioni il Presidente Berlusconi ci ripenserà, esserci è sempre meglio che non esserci. Colpito anche Vespa perché si dice che il casus belli del nuovo pronunciamento berlusconiano c'è stata proprio una puntata del suo programma, quella di martedì 30 settembre dedicata a C'era una volta il dialogo, dove Antonio Di Pietro con Rosi Bindi come spalla ha dilagato mandando al tappeto per KO Maurizio Gasparri, capogruppo PDL al Senato, e Denis Verdini, coordinatore azzurro. Sembra che il Cavaliere ce l'abbia con lei. Il sembra non mi interessa, tanti saluti e giù il telefono, taglia corto Vespa. La notizia di oggi, afferma Michele Santoro aprendo la diretta seconda puntata di Anno Zero, è che Berlusconi ha detto la sua sui talk show televisivi, ha preso delle posizioni che tutti i telegiornali hanno trasmesso, ha detto che è meglio che i suoi ministri non partecipino a certe trasmissioni televisive e poi ha spiegato cosa è successo. Immediatamente tutti i giornali italiani mi hanno chiamato per chiedermi con chi ce l'avesse Berlusconi, se ce l'avesse con me e quali fossero le mie reazioni, ed ecco la risposta di Santoro: la mia reazione è quella di stare qui. E sapete qual è un'altra reazione ancora più bella? Dare la parola a Marco Travaglio, così è ancora più chiaro cosa intendeva dire. E invece Ilaria D'Amico dice di exit, dice quello di Berlusconi è uno sfogo momentaneo, dice non è un uomo di comunicazione come lui a pensare cose di questo tipo imbavagliando la maggioranza. Questo il Corriere della Sera, sempre, che anche esso porta in prima pagina la foto del cinese picchiato. È razzismo, si legge nel titolo. Un immigrato cinese di 36 anni è stato insultato e picchiato a Tor Bella Monaca da 6 ragazzini italiani che sono stati fermati. La baby gang sarebbe la stessa che nei giorni scorsi ha assalito un giovane di colore. Ecco, quindi insomma si è ripetuta la cosa. Io voglio invece il quotidiano Il Manifesto intervista, a parte il titolo che ricorda il titolo della nostra rassegna stampa, invece che è la stampa bellezza, è il mercato bellezza, titola in prima pagina oggi Il Manifesto, riferendosi alla crisi finanziaria. La crisi non molla anche dopo il sì del Senato USA al piano Paulson, il fondo monetario, siamo in piena recessione, l'onda nera arriva in Europa, la BCE siamo fragili, in Italia sale il deficit e i salari sono a rischio, Confindustria. solo Berlusconi e Tremonti sono ottimisti, non corriamo pericoli. Intervista, ecco, l'intervista a Fitoussi, il grande economista francese Jean-Paul Fitoussi risponde sulla crisi, è Anna Maria Merlo che lo intervista. Professor Fitoussi, cosa sta succedendo? Se facciamo riferimento alla storia, le crisi finanziarie ricorrenti sono inerenti al sistema capitalista, ma la crisi attuale ha una sua specificità, direi che è una crisi della comprensione. In che senso? Abbiamo l'impressione, che peraltro è una realtà, che i protagonisti stessi non capiscono cosa fanno e non capiscono più il sistema, e che è gravissimo se fosse così. Hanno creato dei prodotti talmente complessi, e questo è già stato detto da altri osservatori effettivamente, di cui nessuno sa più valutare il valore, e quindi questo valore crolla. Adesso siamo nel momento del crollo di questo valore. Per il momento si tratta più di una crisi di comprensione che di una crisi di fiducia generalizzata. La crisi concerne gli operatori del sistema bancario, non hanno più fiducia in se stessi e quindi non hanno fiducia negli altri, sapendo in che stato sono, non hanno più voglia di prestarsi i soldi l'uno con l'altro, allora il sistema si blocca. Di norma, difatti, i depositi sono una frazione dei prestiti, le banche hanno in permanenza bisogno di rifinanziarsi, poiché prestiti di più di quanti abbiano in cassa attraverso il mercato interbancario. Adesso questo mercato non funziona più, questo dice Fitoussi a proposito della crisi in corso. L'Unità è abbastanza categorica anche oggi, il Parlamento deprime Berlusconi, il Premier insiste a cambiare le regole, fini, se non ci sarà abuso di decreti reagiremo. Veltroni replica, Cavaliere non ha dato al Quirinale, sindaci in rivolta contro gli aiuti a Catania, questo perché, come abbiamo detto in apertura di campagna elettorale, non sarebbe il vero federalismo. Il interessante vedere come i due settimanali in edicola oggi, Panorama e L'Espresso, trattano temi diversi. Panorama invece sta dentro le cose della crisi, perché il titolo di copertina è Economia di guerra. La bufera che ha investito il sistema bancario mondiale agita le paure degli italiani. Alle prese con listini in ribasso e mutui più cari, titoli di Stato meno redditizi e obbligazioni inaffidabili. Ecco i suggerimenti degli esperti per proteggere i propri soldi dai colpi della peggiore crisi da 70 anni. Eh sì, ed è la causa della tempesta, mutui per tutti, crisi immobiliare, titoli invendibili, borse giù. Questo per quanto riguarda il settimanale Panorama, e dove c'è anche un Alitalia, Bruno Vespa racconta la trattativa segreta e dove sbagliano i genitori. Invece il settimanale Espresso titola su tutt'altro, su un'inchiesta che deve avere un certo interesse. Gioventù bevuta, sempre più piccoli cominciano a 11 anni, a 16 sono alcolizzati. Viaggio tra i ragazzi che cercano lo sballo nella bottiglia e poi non riescono più a smettere. Sì, questo è quanto si legge nel primo piano dell'Espresso, una lunga inchiesta sui giovani che bevono alcol. È finito il nostro tempo, vi voglio ricordare sempre che il microfono è aperto dalle 8.30 alle 9, potete intervenire con il numero verde 800 24 00 24 e chiamare anche un po' prima delle 8.30 per prenotarvi. A dopo.